sogni di una volta, un tempo indefinito, sequenze della vita sono qua, confuse ma sembrano realtà, oppure di un tempo che verrà, viaggiano leggeri, ti mettono le ali per volare in alto in libertà. Momenti di una volta, forse mai capiti, scandiscono la storia che verrà, il buio poi piano sparirà, la luce come un lampo squarcerà, le ombre di una volta, ciò che mai capito, cambiare in un momento la realtà. Luci di un amore, trovato tra le stelle, mi portano lontano, poi chissà, se sognerò stare svegli, resta uguale oppure cambia, il mio vivere che scorre insieme a lei. Scorrere il mio tempo, guardandolo negli occhi, capire che il domani poi sarà, insieme di momenti che formano la storia di un amore vissuto in libertà. Sogni di una vita, il tempo mi ha portato, adesso i miei momenti sono qua, colorando spesso la realtà, la vita è tutto quello che verrà, sentire le mie piume, spiegare le mie ali, volare sempre in alto in libertà, sentire questa volta il cuore e poi capire la storia che la stella mi darà, sentire il suo calore che sarà, il buio la sua luce squarcerà, le ombre di una volta adesso le ho capite, è diversa ancora la realtà. Luci di un amore, brillare tra le stelle, mi portano lontano, poi chissà, il sognare o stare svegli resta uguale oppure cambia, il mio vivere felice accanto a lei. Vola già il mio tempo, sentirlo nel respiro, capire che alla fine poi sarà, storia di momenti, di atti ritrovati, di un amore vissuto in libertà.